sei venuto a cercarmi, allora sono andata alla discoteca. Sabato sera alla discoteca, domenica alla discoteca. Venerdì sera non volevo andarci, ma Fabio è venuto a cercarmi, allora sono andata alla discoteca. Sabato sera alla discoteca, domenica alla discoteca. Discoteca, domenica alla discoteca.